Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Oggi è venerdì, allora ritorniamo alle vecchie, sane, ben consolidate abitudini del venerdì di Salva Danaio. Giornata dedicata alle anticipazioni di quanto pubblicherà domani Plus 24 del Sole 24 Ore. Il tema che ha guadagnato la copertina dell'inserto di domani è molto interessante per varie ragioni, perché le condizioni economiche e finanziarie di molte famiglie negli ultimi mesi sono cambiate, ormai questo è un ragionamento a cui diamo spazio di frequente nella nostra trasmissione, e perché ci sono un paio di momenti dell'anno che ci piace considerare come idonei all'esecuzione del tagliando di famiglia: l'inizio dell'anno e l'inizio della stagione autunnale, anche perché magari a qualcuno è sfuggito, perché ha voluto rilassarsi completamente accantonando ogni problema, cosa è accaduto nelle ultime settimane. Allora, mercati azionari e obbligazionari che hanno continuato a comportarsi come fanno ormai da mesi, le borse salgono e scendono a giorni alterni in cerca di una direzione precisa, le obbligazioni, se appartengono ad emittenti solidi, si continuano ad apprezzare, offrendo però rendimenti sempre meno appetibili. Allora, anche alla luce di tutto questo, sotto quali auspici finanziari sta avvenendo il rientro dalle vacanze? Una volta disfatte le valigie, quali sono le operazioni da compiere per rientrare in pista con tranquillità? Come fare anche una verifica della propria situazione finanziaria, previdenziale? Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare, oltre che lavorativa, ma questo è un tema che stamattina noi non toccheremo, che guadagna generalmente altri spazi. Ad aiutarci, ad orientarci in tutto questo stamattina, intanto il capofila della storia di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore, l'amico Marco Lo Conte. Marco, ciao, bentornato dalle vacanze. Grazie Deborah. Io mi sono scolorita del tutto, ma tu c'hai un colore che non riesco neanche a descrivere. I nostri ascoltatori color cioccolato, Marco. Più o meno. Buongiorno. Abbiamo collegato telefonicamente con noi a Franco Bulgarini, presidente di Schema Investment, che è una società di consulenza indipendente. Bulgarini, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. Da un'altra località, dalla quale avrà un colore che immagino, insomma, sarà tutto un programma, perché lo abbiamo al telefono da Rimini, dove ha sede la sua azienda. Invece qui con me, negli studi di Milano di Radio 24, Giancarlo Magri, promotore finanziario di UbiBanca. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E questo perché abbiamo voluto mettere a confronto anche due realtà, come dire, differenti dal punto di vista della consulenza che si può fare ai risparmiatori. La consulenza indipendente, invece, è una società che è, come dire, emanazione di un grande gruppo bancario, per cui rappresenta un gruppo bancario, non è indipendente, e quindi insomma un approccio anche diverso per fare consulenza. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Raccontateci un po' che cosa avete in mente di fare. Avete preso già carta e penna tutti gli estratti conto che vi sono arrivati ad agosto, quando eravate in tutt'altro posto rispetto alla vostra città d'origine? Vi sono arrivati appunto i resoconti della vostra previdenza? Avete in mente di fare una chiacchierata con il vostro consulente, anche con il vostro direttore di banca, per capire se come dire, avete impostato correttamente le strategie di risparmio dall'inizio dell'anno? Oggi è il momento di fare un punto. Insomma, che idea avete in questo momento? Raccontatecelo. Se non ce lo volete raccontare al numero verde, raccontatecelo al 349 238 6666. Io vi ho già raccontato come sta andando la borsa questa mattina. Era partita male, poi la seduta è peggiorata, adesso invece c'è già di nuovo un miglioramento di clima. Abbiamo Londra e Francoforte vicine alla parità, Parigi perde lo 0,3%, Milano meno 0,4%, Milano è arrivata a perdere più di un punto percentuale, stamattina adesso recupera di nuovo. Ci sono i titoli bancari che stanno tenendo banco a Piazza Affari in entrambe le direzioni. Monte dei Paschi è il miglior titolo, guadagna il 4,78%, per il gruppo ci sono le dichiarazioni rilasciate al Sole 24 Ore sulla da parte del direttore generale Vigni sulla possibilità di un ritorno del dividendo, della distribuzione del dividendo da parte della banca. E su questa prospettiva naturalmente gli investitori non si sono fatti mancare l'occasione stamattina di riacquistare a piene mani il titolo. Lottomatica più 2 Telecom più 1,75, Impregilo più 0,9, Campari più 0,7%. Dall'altra parte invece abbiamo la Popolare di Milano che scivola di 5 punti in questo momento sulla scia della diffusione dei conti semestrali archiviati con un utile netto in calo del 43%, STM meno 2, Intesa presenta la semestrale oggi meno 1,74%, ma ieri è cresciuta un bel po', invece sulla scia dei conti della controllata del risparmio gestito Fideuram. Unicredit -1,28, Prismian -1,13. Valute ancora da monitorare: l'euro riconquista, sembra in questo momento abbastanza stabilmente l'euro, l'euro riconquista quota 1,27 sul dollaro, lo yen è sempre abbastanza forte ma in rallentamento da qualche ora, da quando il governo ha detto che finalmente è pronto a presentare questo piano per frenarne la corsa. Si pensava che il piano potesse essere presentato oggi, invece tutto rinviato a martedì, e quindi insomma vedremo quali saranno queste indicazioni, che a questo punto rinviamo alla prossima settimana. Oggi dagli Stati Uniti arriva la seconda lettura del PIL del secondo trimestre e l'attesa relazione del presidente della Banca Centrale Americana Bernanke a Jackson Hole. Vedremo appunto quali dichiarazioni darà sull'andamento economico americano. E lasciamo la borsa di oggi, sui mercati però ci manteniamo oggi per capire che posizioni dovranno prendere nelle prossime settimane i risparmiatori che sono all'ascolto. E allora oggi anticipiamo la storia di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore. Marco Lo Conte: già molti di noi hanno potuto fare poche vacanze, molti sono tornati al lavoro, molti lo hanno perso, ne stanno cercando un altro e magari hanno avuto la fortuna di trovarlo e lo stanno ricominciando, un altro lavoro, e un po' tutti insomma siamo nelle condizioni di dover fare un check-up autunnale. So che i consulenti pensano che il check-up e il tagliando le proprie finanze non abbia una stagionalità, poi ce lo racconteranno, però insomma le considerazioni che hai raccolto tu, noi ne avremo due questa mattina, ma tu hai interpellato molti professionisti del risparmio, che cosa ti hanno raccontato? Beh sì, abbiamo cercato in questa storia di copertina di Plus 24 domani in edicola di guidare il lettore tra i diversi settori sui quali è opportuno fare mente locale periodicamente, perché le novità degli ultimi tempi impongono un check del nostro portafoglio per quanto riguarda per esempio i conti correnti, ma anche i mutui, i conti di deposito, la pensione e le polizze, questi cinque ambiti su cui dare un'occhiata, giusto per limitarli, perché evidentemente si potrebbe anche parlare di credito al consumo che impone delle novità prossimamente molto rilevanti, ma insomma per limitare l'indirizzo un po' del proprio risparmio è abbastanza condizionato per esempio dalla rata del mutuo. Assolutamente. Il mutuo, se tra questa l'altro cambia, esatto. I tassi adesso sono tranquilli, però quando i tassi questa cambia sono tranquilli, ma l'Euribor è salito notevolmente negli ultimi sei mesi, poi ha avuto un rallentamento negli ultimi giorni, però ci sono delle novità anche per le famiglie che hanno delle difficoltà economiche. Tra poco parte il fondo di solidarietà, sì, già fatto ieri con Maximilian Cellino, esatto, però insomma, e lui grazie stesso, per averlo ricordato, lui stesso contribuisce alla nostra storia copertina per sottolineare questo punto. Complessivamente cerchiamo di dare delle indicazioni a chi magari sulla spiaggia o in montagna, in baita, colloquiando con amici, conosciuti in vacanza, ha confrontato, che so, la rata del mutuo, sì, il fondo comune, i rendimenti, e a volte non è stato piacevole scoprire di pagare troppo, più dell'amico conosciuto. Può essere per stato non invece parlare poi delle idee di investimento con le quali si torna a casa. C'è, esatto, l'amico che ha l'obbligazione del Bangladesh che rende guarda, il 10%, l'alluminio, dice, ma questa è il mio consulente, non me l'ha suggerita. No, beh, insomma, abbiamo cercato di indicare al lettore, che domani potrà approfondire questo tema, insomma, una sorta di fil rouge per fare un check-up di un portafoglio che non sia dipendente dall'emotività del momento, e quindi passare dall'impressione d'agosto a qualcosa di più strutturato a settembre, diciamo così. Anche perché magari qualcuno questo check-up l'ha fatto prima di partire per le vacanze, certo, proprio per andarsene in vacanza tranquillo. Offro subito la sponda ideale ai nostri interlocutori. Oltre a Marco vi ricordo ancora Franco Bulgarini, presidente di Schema Investment, e Giancarlo Magri, promotore finanziario di UbiBanca, che tra l'altro ha anche la responsabilità di un bel gruppo di promotori finanziari. C'è un ascoltatore, Fabio, che ci scrive, il primo che inaugura i nostri messaggi al 349-238-6666. Le strategie di risparmio vanno monitorate almeno mensilmente, non ad inizio anno e ad agosto. E allora Giancarlo Magri proprio questo mi raccontava, a un gruppo di clienti che richiedono, certo anche per l'ammontare del patrimonio che viene gestito, un tipo di monitoraggio mensile. Questa è una regola che vale per tutti, secondo lei, Magri, oppure in questo momento dell'anno la vostra agenda si infittisce di appuntamenti perché c'è il check-up dei vostri clienti? clienti? Allora, di base dobbiamo comunque tenere sempre monitorato il portafoglio dei nostri clienti con confronti periodici, quindi in base anche all'importo del portafoglio questi incontri possono essere più o meno frequenti. Poi sicuramente nel periodo di luglio-agosto i clienti vogliono dimenticare il passato, vogliono staccare, e quindi magari all'inizio settembre c'è quella voglia di riprendere in mano la situazione. Mm-hmm. E quindi questa per lei è una strategia corretta, oppure cercate di far capire che non è corretto che si abbia una stagionalità nel controllo dei propri investimenti? Allora, non è corretto assolutamente avere una stagionalità del controllo degli investimenti, cioè l'investimento va tenuto monitorato costantemente. Poi fondamentale che il portafoglio sia costruito secondo la propensione al rischio del cliente. E certo. Bulgarini, i suoi clienti invece che cosa le stanno dicendo in questo momento? Vale anche per lei la domanda che facevo prima a Giancarlo Magri, un'agenda più fitta di appuntamenti fra qui e settembre, perché in molti vi stanno chiedendo: mi spieghi insomma che cosa è accaduto al mio denaro negli ultimi mesi e come posso impostare diversamente, o se è il caso di farlo, se è il caso di impostare diversamente nei prossimi mesi la strategia di investimento mia e della mia famiglia? Che non sia necessario impostare diversamente la gestione degli investimenti, nel senso che un portafoglio di investimento di un investitore dovrebbe essere impostato la prima volta che ci incontriamo. Poi si tratta semplicemente soltanto di monitorare i risultati che si stanno conseguendo, di utilizzare gli eventuali stop loss, di fare l'attività quotidiana, diciamo, di manutenzione, ma non di sicuro di rivedere la strategia in base alla stagione tipo luglio-agosto, o anche in base a come vanno i mercati. Questo è il nostro pensiero, per cui agenda fitta come tutti i mesi in modo regolare. Ma lei mi sta dicendo quindi che nessun cliente è venuto da lei a raccontarle che la situazione finanziaria della propria famiglia è cambiata drasticamente, perché magari si tratta di un piccolo imprenditore a cui il fatturato si è dimezzato, perché ovviamente gli affari stanno andando come stanno andando per ragioni della crisi, oppure magari si è perso il lavoro all'interno di questo nucleo familiare? In questi casi non c'è bisogno di fare un tagliando? Certo, ma queste sono situazioni abbastanza particolari, devo dire, nel senso che nella maggior parte dei casi il patrimonio sul quale noi facciamo assistenza ai clienti è l'ultimo al quale si va dal quale si va a prendere soldi nel momento in cui ci fossero esigenze di questo tipo. È chiaro che se una famiglia o un imprenditore si trovasse in difficoltà di liquidità, di sicuro non l'abbiamo scoperto dopo luglio o dopo agosto, ma forse ci siamo accorti da gennaio o addirittura dall'anno scorso che questo sarebbe potuto succedere. Di conseguenza avremmo fatto delle modifiche nel momento in cui ci rendiamo conto che la situazione si sta delineando in questo modo, insomma. Credo che sarebbe folle per un imprenditore svegliarsi a settembre e accorgersi che non ha liquidità. No, vabbè, ma è ovvio che questa è una crisi che sta andando avanti da un bel po', però... Intendevo dire che se un imprenditore o una famiglia ha necessità di ricostruire il suo portafoglio, magari aveva destinato una quota di risparmio a investimenti a lungo termine, ma le condizioni sottostanti sono cambiate, perdita di lavoro o minor fatturato questa è una situazione che si evidenzia mentre sta succedendo. Bulgarini, in quanti sono venute da lei chiedendo un suggerimento su quale, per esempio, tipo di risparmio delle varie tipologie attivate fosse il caso di chiudere, perché le famiglie hanno avuto bisogno di fare rifornimento in questo senso, nel senso che si è dovuta attacchire anche a questa liquidità per far fronte ad improvvise esigenze finanziarie familiari? Purtroppo la devo deludere, ma nemmeno uno. Ah, beh, insomma. No, nemmeno noi non abbiamo avuto clienti che hanno avuto questo problema, per fortuna per loro e per fortuna per noi. Sinceramente, quindi non è un'esperienza che non la posso raccontare. Beh, lei invece? Allora, direttamente sui clienti che hanno perso posto di lavoro, fortunatamente anch'io questa problematica non l'ho vista, non l'ho vissuta. Ho comunque diversi clienti imprenditori che in questa fase la nuova ricchezza accumulata viene accantonata in strumenti a bassissimo rischio per eventualmente poi reinserirli in azienda. In azienda, reinvestire in azienda. Allora, esperienze di vario tipo, come quelle che poi ci racconteranno anche due ascoltatori che sono già pronti ad intervenire all'800240024. Sono Franco da Lecco, Mara dalla provincia di Pavia. A loro chiedo solo un attimino di pazienza perché volevo ritornare un attimo a Marco Locontre. I controlli da fare dopo le vacanze, Marco. La prima cosa da fare che voi suggerite domani, io già non vorrei poi alzare completamente il velo sulle pagine di Plus 24 perché sennò vanifichiamo tutto il vostro lavoro, ma sicuramente c'è un suggerimento interessante, perché io non credo poi che tutti lo seguano. Quando si ritorna dalle vacanze e si ritrova la casella della posta piena di roba, si ha la tentazione di dare un controllo abbastanza veloce, buttare via magari le informazioni pubblicitarie e le cose della banca, lasciarle lì, insomma, magari a volte non è corretto farlo, perché si può nascondere dietro alle ultime lettere della banca qualche sorpresa, come per esempio qualche variazione di qualche commissione. Beh sì, come molti ricorderanno, è stata abolita la commissione di massimo scoperto e in alcuni casi alcune banche, alcuni istituti hanno fatta uscire dalla porta per farla rientrare dalla finestra. Esatto. Ecco. E per cui è il caso di dare un'occhiata per verificare che non ci siano aumenti di commissioni già esistenti o l'introduzione di nuove commissioni che non conoscevamo. Giusto così per controllare, poi ci auguriamo che il 100% dei nostri ascoltatori e il 100% dei nostri lettori non abbiano questa casistica, ma insomma è giusto il caso di verificare, e dovesse esserci questa eventualità, il consiglio è inevitabile di recarsi in banca per discutere di questa cosa, di provare a farci togliere questa commissione. È inevitabile che poi il rapporto di fiducia che un cliente ha nei confronti del proprio istituto viene fatto di tanti episodi, e questo potrebbe evidentemente configurarsi come un episodio non positivo. Questo è sicuramente un dato, perché storicamente oggi insomma il rapporto con le banche è molto migliorato, complici molti interventi normativi e anche un certo tipo, un miglioramento della capacità contrattuale dei risparmiatori. Mm-hmm. Penso che così un po' di problemi che ci sono stati di crack finanziari e forse un po' di educazione finanziaria che anche da questa emittente, oltre che dal giornale, siamo riusciti a instillare, beh, insomma, ha reso i risparmiatori più consapevoli e più coscienti. Per cui il lontano passato è molto lontano, però ricordiamo che proprio le variazioni contrattuali dei conti correnti bancari avvenivano non casualmente, proprio tra luglio e agosto, in modo che decorressero i termini per recedere al contratto proprio mentre si era in vacanze. Ora questo non accade più. Però un'occhiata non fa male. Non fa male. L'estratto conto poi arriva a fine settembre, magari adesso appunto se è arrivata una comunicazione della banca, non è l'estratto conto, andiamo a vedere esattamente che cos'è. Rino mi dice: cara Deborah, sei brava ma prolissa, fai domande dirette più concise. Sa Rino che cosa faccio? Io faccio fare le domande ai nostri interlocutori direttamente a voi ascoltatori. Allora cominciamo con Franco da Lecco. Franco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno signore, grazie. Da dove ci sta chiamando? Da ancora dalla spiaggia lei? Perché sento una voce lontanissima. No. Senta, volevo dire questo. Io sono tra i piccoli imprenditori che ha subito un salasso nel fatturato, un crollo del titolo iniziale. Franco, senta, facciamo una cosa, io la sento male, come davvero se fosse in acqua, e quindi adesso chiedo alla mia collaboratrice Gaia Romani di ripristinare questa telefonata, magari se potesse spostarsi forse riusciremo anche a sentirla con una qualità migliore. E vado da Mara, dalla provincia di Pavia. Buongiorno e grazie mille per l'assistenza psicologica che ci date, oltre tutto il resto. Io sono una solo piccola risparmiatrice che non ha più il coraggio di andare in banca. Avrei dovuto andare prima della scadenza dei miei BTP di giugno, non sono andata perché sapevo già, non so, le strane cose o niente che mi proponevano. L'azionario risale al 2000-2001, quindi siamo sempre un po' sull'ottobre. E proponevo io di fermarmi e di darmi stop loss, la banca mi diceva no signore, impossibile seguire gli stop loss e quant'altro. Bon, quello è archiviato perché è chiaro, non so più cosa fare con perdite del 40-50%, adesso devo andare per i BTP, non ho più il coraggio di entrare in banca, come affronto questa situazione? Ecco, infatti Mara, perché qua sento anche proprio una certa emozione da parte di questa ascoltatrice, addirittura si è creato questo sgomento nel dover varcare la porta per andarsi a fare una chiacchierata con il direttore. Io le suggerirei addirittura di cambiare banca, perché se deve avere questa angoscia a andare a parlare con le persone che sono lì dentro. Io non dico poi che il direttore Rino mi dice che sono prolissa, ma che debba fare lo psichiatra, no, o lo psicologo, però quantomeno cercare di rassicurare le persone che si seguono. Bulgarini, che cosa le suggerisce il caso di Mara? Come diceva lei, la voce tradisce una certa emozione. Io da tanto tempo sostengo che la soluzione di cambiare banca è comunque una soluzione che ogni risparmiatore ha nel suo carniere, e credo che dovrebbe anche non solo minacciare la banca di andarsene, come purtroppo fanno tanti, ma andare, chiudere e aprire un'altra posizione. Ma questo però non risolve il problema della signora nello specifico. Purtroppo credo di aver capito che la signora ha investito nel mercato azionario nel 2000-2001, e cioè quando lo hanno fatto tutti, comunque quando lo ha fatto la maggior parte delle persone, e oggi si trova purtroppo dopo 8, 9, 10 anni con cocenti perdite, così come tutti quelli che hanno investito purtroppo nel 2000. Ora, questo problema non ha una soluzione purtroppo per la signora, nel senso che per ripristinare il patrimonio che lei ha investito serve un raddoppio del mercato, e io credo che insomma è una speranza che sicuramente nel giro di poco tempo non si può realizzare. Per cui credo che, come consiglio a molte persone in queste condizioni, è meglio chiudere la posizione, prendere atto che quello è il nostro patrimonio e decidere da oggi in poi che cosa fare con questo denaro. Perché allora, sì, trascinando questo cancro ogni volta che si pensa, la signora dice addirittura non ho più voglia di andare in banca, ogni volta che si pensa al proprio denaro viene uno stress psicologico veramente troppo forte, secondo me. Certo, dobbiamo anche cominciare ad abituarci al fatto che la borsa non è niente di sicuro, e che se siamo in condizioni emotive così fragili come quella di Mara, dalla borsa dobbiamo stare lontani. Però adesso non per essere così drastici anche nei confronti di questa ascoltatrice, che tenteremo di rassicurare ulteriormente nella seconda parte della trasmissione, per Bulgarini insomma è il caso di uscire dalla borsa e cominciare a posizionarsi su qualcosa di più tranquillo. Adesso su cosa può essere più tranquillo per Mara ce lo faremo dire tra poco da Giancarlo Magri, se vorrà, ma anche da Marco Loconte. Eccoci ritrovati in diretta. Giancarlo Magri, promotore finanziario UbiBanca, ammettendo che Mara fosse una persona che lei conosce personalmente, no? E così vi incontrate casualmente e lei le espone il caso, come ha fatto con noi, anche con un certo tremolio della voce, perché dice: non ho addirittura più il coraggio di entrare in banca. Probabilmente Mara è una persona che non ha un grandissimo risparmio, come i clienti che lei è abituata a gestire. Magri però so che saprà sicuramente anche rincuorarla. È corretta la ricetta che offriva prima l'altro nostro consulente di stamattina, Bulgarini? La borsa forse non è, per un carattere come quello di Mara, più adeguato un prodotto di investimento di natura più prudente, che potesse conservare il suo capitale. Cosa deve fare adesso? Sicuramente mi piacerebbe parlare con la signora Mara, capire il momento in cui ha fatto determinati tipi di investimenti, che cosa si aspettava e se era consapevole di quel rischio che poteva portarsi a casa comprando un fondo azionario o una singola azione. Lì è fondamentale proprio la fase del primo approccio, cioè cercare di confrontarsi serenamente con l'investitore. Ritrovarsi anche più volte prima di partire con un piano di investimento. Probabilmente è mancato questo. Certo. Poi il consiglio che posso dare alla signora Mara è quello: innanzitutto sbaglia a non prendere e andare nella sua banca. Allora, se non ha più fiducia su questa banca, il consiglio è quello di cambiare, passare a un consulente o no, un promotore. Ma mi rendo conto che se si trova anche in una condizione così fragile come l'ho definita prima, certo che anche addirittura chiudere completamente il rapporto con la banca, portare via tutto il denaro, ripristinare un rapporto con un altro istituto di credito, anche quella per lei dovrà sembrare un'operazione di una difficoltà enorme. Marco, lo Conte. Tutto può essere facile e difficile, dipende anche dalle motivazioni. È vero che chiudere dei rapporti in banca può essere anche faticoso. Il mio caso personale è stato molto faticoso. Però insomma, lei, tu non sei andato lì dicendo lei non sa chi sono? No, io non gliel'ho detto. Ma non sto scherzando, ci mancherebbe, manco per dare l'idea ai nostri ascoltatori che lo facciamo, che no che assolutamente, non è così, ecco. Assolutamente, anzi, però è stato complicato, perché c'è sempre qualche problema, però bisogna farlo. Perché è giusto, perché è opportuno. Dispiace per Mara e per tutti quelli che hanno questa difficoltà, però è anche qua, questo caso ci insegna quanto quanto sia importante depurare il nostro rapporto col denaro da una emotività sbagliata, eccessiva, che ci condiziona negativamente. Allora bisogna prendersi cura dei nostri soldi nel modo migliore. Periodicamente ci diamo un'occhiata, più è serrata la periodicità, tanto meno rischiamo di avere sorprese. Non dobbiamo esagerare, ma insomma è il caso, nel momento in cui prendiamo la decisione, di portarla a termine. Se non riusciamo da soli, ci facciamo aiutare da un consulente, da un professionista, da un amico, da un parente, se non riusciamo a avere strumenti o capitali tali da poter essere seguiti da un professionista che giustamente mette a disposizione la sua attività, il suo lavoro, in relazione ad una remunerazione di diversa natura. Ma insomma, se c'è da fare qualcosa, si deve fare. Bisogna prendere coraggio, noi glielo diamo a Mara, cerchiamo di infonderle un po' di stimolo, un po' di serenità. Certo. Su questo, perché è opportuno, se scade un BTP bisogna andare a vedere come è andata, perché anche le oscillazioni dei mercati, noi spesso poi parliamo dei mercati azionari. Esatto, ma abbiamo imparato come questa crisi abbia portato sulle montagne russe anche i titoli di Stato, il cui valore è salito parecchio, il cui rendimento di conseguenza è sceso molto. Mm-hmm. E dunque è il caso di darci un'occhiata, perché ora le tensioni sulla possibile ricaduta delle economie mondiali, il cosiddetto double dip, sta portando ad un'ulteriore crescita dei titoli di Stato tedeschi, italiani, insomma quelli di maggior sicurezza, e ci si rifugia tutti, quindi, un po' lì, però ecco, al prezzo di ovviamente conquistare rendimenti molto risicati, quindi, esatto. Purtroppo gli italiani, dagli ultimi studi che periodicamente vengono fatti, curano il proprio denaro mediamente per circa 2 ore all'anno, anche meno di 2 ore all'anno. Tenendo conto che mediamente si guarda la televisione 2 ore al giorno, forse potrebbe essere utile invertire leggermente, radicalmente. Pochino, ma questo dà l'idea, insomma, di quanto ci curiamo di cose a volte secondarie, quanto tempo spendiamo, impieghiamo, investiamo nell'acquisto di un'automobile, sì, di un telefonino, sì, sì, e quanto poco discorso. Tempo. Ecco, so che è classico, l'abbiamo fatto tante volte, però depuriamolo da tante tensioni e vedrete che sarà una cosa molto più semplice. Molto meno difficile di quanto non sembra. Esatto. Allora abbiamo recuperato Franco da Lecco intanto. Franco? Buongiorno signore. Oh, adesso la sento molto meglio. Prima sembrava addirittura che stesse nuotando, insomma una cosa, sembrava in un acquario. Sono in macchina e sto lavorando. Si dica. Allora, io sono un piccolo imprenditore che ha visto calare enormemente il fatturato dell'azienda. Sono stato salassato dei risparmi dai titoli azionari. Mm-hmm. Beh, insomma, sono il tipico individuo che in questo periodo è stato uno sconfitto economico. Va bene, Franco, però, sperando naturalmente che la direzione cambi. In che settore lavora Franco? Imprenditore impianti industriali. Uh-huh. Non sono un pessimista, per cui spero che le cose vadano avanti, certo, in meglio. Tuttavia, di fronte a uno scenario di questo tipo, a uno non è che viene voglia di investire soldi in azienda e di cambiare automobile, cambiare marca, eccetera, eccetera. Di conseguenza, questo meccanismo qui di crisi penalizza i consumi, l'occupazione, e tutta una spirale che voi conoscete meglio di me, e aspettiamo. Certo. Io ho preso atto che gli investimenti che ho fatto in azioni sono stati sbagliati perché li ho fatti io, non per colpa della banca. Mm. Ero informato, adesso mi tengo i miei titoli, nella speranza che si rivalutino un po'. Certo, magari non sarà, come dire, una situazione che si concretizzerà nel giro di pochi mesi, ma nel lungo termine, se la borsa rispetterà la sua regola di sempre, nel lungo termine, insomma, però insomma questo lungo termine credo che sarà lunghissimo. Giancarlo, Magri, le persone che hanno investito massicciamente nel settore azionario, per quello che riguarda il portafoglio dei suoi clienti, hanno lo stesso scoraggiamento? Franco tutto sommato ci diceva: sono un ottimista, però devo prendere atto della situazione. Allora, diciamo che i miei clienti difficilmente vanno a comprare i singoli titoli, in quanto la diversificazione comunque ci permette di evitare in alcuni disastri che abbiamo visto nel 2001, abbiamo visto riveduto nel 2008. Certo, molte volte bisogna anche avere la forza e la capacità di dire: se ho un prodotto o un'azione che probabilmente ha già dato tutto, meglio vendere in perdita e riportarmi su un cavallo magari un po' più veloce. Certo. Qual è il cavallo veloce adesso? Che potrebbe permettere un minimo recupero delle enormi perdite che gravano sui portafogli di tanti risparmiatori. Allora, non una ricetta ce la deve dare, però. Non sono un indovino, perché no. La cosa che dico ai miei clienti, la cosa giusta da dire è che c'è una ricetta idonea ad ognuno di noi, a cui rispondo ai miei clienti, è che se avessi la capacità di prevedere il futuro, probabilmente non sarei lì alle 5, alle 6 o anche alle 8 di sera a discutere dei suoi risparmi con lui, perché lo farei per me da un'isoletta dei Caraibi, due telefonate al giorno e indovinerei. Secondo me è fondamentale proprio quello di selezionare gli strumenti che si hanno a disposizione, cercare di dare ai propri clienti consigli e fare acquistare quelli con il miglior rapporto rischio-rendimento in base al profilo del cliente. Mm-hmm. Bulgarini, ha sentito le ultime parti? L'abbiamo recuperata, avevamo perso anche lei. Non ho sentito una risposta, ma adesso siamo andati avanti e parliamo dell'attualità. Sì, infatti, ha sentito Franco Dalecco. A lei non sono capitati clienti di questo tipo. Franco invece è un imprenditore che ha subito un drastico ridimensionamento della sua attività produttiva, del fatturato, quindi delle sue entrate, e contemporaneamente ci ha ammesso candidamente che ha fatto anche degli investimenti nel settore azionario non fortunati, cioè, però non mi sono fatto seguire da nessuno. E insomma, a queste persone cosa diciamo adesso? Io, se posso, volevo fare due piccole precisazioni in seguito a cosa diceva poco fa il collega. Sì. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che un investitore privato non debba comprare titoli singolarmente, perché credo che la diversificazione fatta attraverso il risparmio gestito, per capirci, insomma, credo che l'alternativa sia quella, sia decisamente meglio dal punto di vista della diversificazione. Questo però non risolve il problema dei disastri del meno 70-80%, perché comunque anche gli strumenti del risparmio gestito, nel momento in cui i mercati sono scesi, hanno subito quelle perdite. Sì, poi il risparmio gestito ha anche subito altri problemi, anche ha avuto altre questioni da affrontare, come la concorrenza interna alle banche, insomma banche che, come dire, hanno orientato i clienti più che sui fondi di investimento su altri prodotti. Questo è stato anche un altro problema, insomma, che l'industria ha affrontato, che abbiamo spesso analizzato qua. Detto questo, Bulgarini, volevo soltanto dire che la diversificazione risolve un problema, ma non li risolve tutti. E l'ultimo piccolo dettaglio che volevo dire è questo: chi ha investito in borsa nel 2000, nel 2001, e oggi sono ancora la maggior parte di quelli che purtroppo sono costretti a leccarsi le ferite, lo fanno perché rispetto a quel tempo, oggi il mercato è sotto del 20, 30, 40%, dipende di quale mercato parliamo. Volevo soltanto segnalare che in questi 10 anni i mercati azionari in generale, poi qualcuno più, qualcuno meno, comunque sono passati dal 2000, diciamo così, ad oggi, hanno fatto un ribasso del 50% medio, poi c'è stato un rialzo del oltre il 100%, poi c'è stato un altro ribasso un po' più forte del 50% e poi c'è stato un altro rialzo intorno al 70%. Quindi il saldo finale a 10 anni è negativo, ma all'interno di questi 10 anni ci sono stati grandi possibilità comunque di non fare dei disastri sui risparmi, ma anzi anche di fare dei buoni risultati. Come a dire, se si facesse il monitoraggio puntuale e costante come quello che abbiamo suggerito all'inizio dell'anno, magari non un più 70% se si è ovviamente acquistato sui minimi e venduto sui semimassimi, insomma qualche soddisfazione qualcuno può anche averle portata a casa. Sì, il problema non è... Io sono convinto, e questo è quello che noi riscontriamo quotidianamente nella nostra attività, la maggior parte della performance di un portafoglio finanziario dipende da quello che fa l'investitore, né da quello che fa il mercato, né da quello che fa il gestore. Voglio dire che in 10 anni, dove ci sono stati 5 anni di ribassi e 5 anni di rialzi, trovarsi dopo 10 anni ad avere meno 30, meno 40%, dare la colpa al mercato che è sceso o dare la colpa al gestore del fondo che è stato poco bravo o poco professionale, secondo me è un po' troppo gratis, nel senso che non è completamente corretto, certo. No. Questo era semplicemente una precisazione. No, ma noi la sposiamo, credo, almeno a giudicare dalle facce che vedo, forse magri, non del tutto convinto rispetto sullo Covid, il ribilanciamento del portafoglio, ecco. Cioè quando secondo me è fondamentale avere un portafoglio costruito sulle esigenze, sulla propensione al rischio del cliente. Quindi se io parto con una componente classica, 70 azioni, 70 obbligazioni, 30 azioni, e in due anni la componente azionaria da 30 mi passa a 60, quindi il mio profilo di rischio va a cambiare. Aumenta notevolmente. A questo punto devo intervenire e ribilanciare il portafoglio. Ribilanciando il portafoglio comunque vado a consolidare anche dei guadagni. Rientriamo con Salvadanaio per il nostro check-up autunnale delle finanze, tanto lo continuiamo a definire così, anche se l'abbiamo un po' smontato questo mito di questo tagliando stagionale. Marco Lo Conte, in questo periodo nelle case di molte di noi è arrivata una busta bianca, ce l'ha mandata l'INPS, con dentro un codice, un PIN. Questo io prometto già ai nostri ascoltatori che sarà oggetto di un approfondimento. Salvadanaio, però intanto vogliamo spiegare che cos'è questo documento, Marco? Beh sì, tra i propositi di settembre, cogliamola così l'occasione, no, del portafoglio, dell'agenda d'autunno di cui parliamo oggi, che domani è possibile leggere approfonditamente su Plus 24, tra i propositi della fine dell'estate c'è quella di dare un'occhiata a quella che è la nostra posizione previdenziale. Allora l'INPS, l'Istituto di Previdenza, ha inviato ai lavoratori un codice PIN per guardare online sul suo sito internet qual è la posizione previdenziale. Che cosa viene fuori? Viene fuori la quantità di contributi accumulati dal lavoratore negli anni. Questo invio, questa comunicazione serve per l'INPS per far sì che il lavoratore possa verificare l'effettivo versamento dei contributi. Solo quelli versati all'INPS, Marco? Io per esempio ho un periodo in cui la mia azienda versava i contributi all'EMPALS, potrò vedere anche quelli? Per il momento però l'INPS sta cercando di coordinare tutti gli altri enti previdenziali per far sì che ci sia una fotografia insomma completa. Il punto è che è una visione, come dire, così noi vediamo quello che abbiamo accumulato finora. La busta arancione degli altri paesi europei, in Svezia dove è nata la busta arancione e anche come colore insomma si era diventata anche un caso di costume, insomma un po' in tutta Europa ci sono strumenti analoghi, quelli più raffinati puntano a dare anche non solo una visione di quello che è stato accumulato ma anche una indicazione previsiva di quella che sarà la nostra pensione se le cose continuano in questo modo, ossia se un 45enne ha un guadagna X, lavora da X anni, andrà ad avere a 65 anni, diciamo così, una pensione che ai valori di oggi vale X. Quello. Quindi è una visione previsiva che è importante per capire, o anche semplicemente al di là del valore numerico dei numeri di euro, ma un'indicazione del rapporto tra primo assegno pensionistico e ultimo stipendio stimato. Questo ci serve perché ci dà un'idea molto concreta di quella che sarà la nostra vita da pensionati, e quindi sapere se prenderemo la metà dell'ultimo stipendio ci dice oggi, a 20 anni di distanza, che forse è il caso di fare qualcosa per risparmiare in uno strumento utile che ci consenta di passare dal 50% per esempio al 60% dell'ultimo stipendio, e in questo modo possiamo programmare la nostra vita da qui a 20 anni, da qui poi anche a 30, 40, insomma per i ventenni e i 30 anni successivi da quando andiamo in pensione, ma auguriamo 40 anni dopo la pensione, insomma una vecchiaia più serena e meno legata al caso. Giancarlo Magri, promotore di UbiBanca, noi siamo stati portati a fare una seria riflessione sulla nostra pensione del futuro solo da quando è entrata in vigore questa riforma del TFR 3 anni fa, che in sostanza ha sollecitato molti, quasi tutti i lavoratori italiani, tutti direi, a fare appunto una seria riflessione su come incrementare possibilmente la propria pensione pubblica del futuro, perché chiaramente non sarà le casse dello Stato non saranno molto generose in futuro con noi. Questo è un tema insomma che abbiamo affrontato tante volte. Quanti dei suoi clienti hanno cuore il tema della previdenza complementare, come li sta accompagnando in questo percorso? Allora, gli imprenditori hanno aderito a fondi pensioni aperti già dall'inizio, già quando lavoravo ancora in banca, quindi negli anni 97-98. Quindi il fondo pensione aperto lo sto con i miei clienti, lo sto portando avanti i piani di versamenti, facciamo un check di verifica, anche se l'arco temporale a questo punto diventa effettivamente dei 15-20 però anni. Lì un tagliando annuale va fatto lo stesso o va fatto più frequentemente secondo lei? Secondo me va fatto tagliando annuale, anche perché rischiamo di perdere di vista l'obiettivo finale, che comunque è a 15, cioè a 15-20 anni. Il discorso che faccio con i miei clienti è: si può partire con un profilo di rischio magari un po' più elevato, per man mano che ci avviciniamo all'età della pensione e man mano il capitale aumenta, andarlo a ridurre per trovarci per gli ultimi 5 capitale, anni certo. Avere il capitale che non sia soggetto da volatilità dei mercati. Mm-hmm. Con alcuni miei clienti imprenditori ho fatto anche un servizio di consulenza nei confronti dei loro dipendenti nella fase di transizione dalla nuova normativa sul TFR. Purtroppo ho notato che, specialmente nei confronti degli operai, cioè della grande massa, c'è pochissima educazione su questo aspetto e molti non sfruttano neanche la possibilità della contribuzione da parte del datore di lavoro alle contribuzioni al fondo pensione. C'è stata una grande battaglia anche da parte nostra per far passare correttamente il messaggio che voleva far passare la riforma del TFR. Marco se lo ricorderà, perché non so quante centinaia di trasmissioni abbiamo fatto su questo argomento. C'è stata la grande percezione dello scippo del TFR in quella fase, per cui magari ci ritorneremo, magari dovremo ripristinare questa battaglia, Marco, sì. Prossimamente, se poi peraltro le condizioni dei lavoratori anche torneranno, speriamo, a migliorare per tutti, anche più serenamente potranno guardare a questo tema. So che è un tema che piace molto anche a Franco Bulgarini, gli chiedo però ancora un attimino di pazienza perché ci sono 3 ascoltatori pronti ad intervenire, vorrei magari sentirli tutti rapidamente, cominciando con Marco da Forlì che ci aspettava da un po'. Marco, buongiorno. Buongiorno, grazie. Ci dica. Grazie, mi sente? Sì, la sento benissimo. Ah, grazie. Senti, io vorrei sapere, quando si fa un investimento, è possibile avere anche un'assicurazione? In che senso, Marco? Certo che si può fare un'assicurazione, su che cosa? Sì, assicurazione. Quando c'è chi ti presenta un investimento e dice tu potrai avere, che ne so, un tot di guadagno e poi non ce l'hai. Magari un tot di assicurazione affinché tu vieni coperto da ciò che può succedere in casa. Beh, Marco, ci sono già, sì, grazie Marco che ci chiama da Forlì, ma non credo fosse esattamente originario della Romagna. Comunque, detto questo, Marco Lo Conte, vabbè, ci sono molte tipologie di prodotti di investimento, sì. Capitale garantito. Chi garantisce? Si chiede sostanzialmente il nostro ascoltatore. Se la banca mi vende una sua obbligazione, un suo titolo di debito, garantisce la banca, cioè l'emittente, che non casualmente è anche il venditore del prodotto stesso. Se compro un titolo di Stato, un BTP, un BOT, garantisce lo Stato. È chiaro che si fanno la possibilità che uno Stato europeo dell'Eurozona fallisca è infinitesimale. Si calcola per scrupolo. Anche se ci siamo andati un po' vicini, esatto, un po' troppo vicini per i miei gusti a maggio. Per alcuni Stati, ma quelli hanno truccato i conti, cioè si può dire, no? Grecia ha truccato i conti. Sì, è stato sdoganato. Ci sono migliaia di pensionati, migliaia di pensioni erogate a persone che sono defunte e questo, insomma, il caso Grecia è un caso patologico. Però, insomma, paesi normali, mediamente normali, insomma, garantiscono per i loro titoli. Il titolo assicurativo è un titolo diverso da un titolo finanziario, un titolo, uno strumento assicurativo. Lì c'è la garanzia di un altro emittente, che è la compagnia assicurativa, rispetto a una polizza, garantisce nei confronti di alcuni eventi che possono accadere. Mm-mm. E quindi questo è il livello di garanzia. Poi certo, se facciamo un passo avanti, se un intermediario, un consulente, uno sportellista bancario dice non si preoccupi, si fidi, questo titolo andrà bene, non deve preoccuparsi in nessun modo. È la volta buona che bisogna accendere fiducia, la lanternina. È quello rapporto di fiducia e quello si instaura tra persone, tra certo. Persone che si guardano negli occhi, nel bianco degli occhi, e si capiscono. Allora, voglio sentire assolutamente Piero da Torino. Piero, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo solo osservare al suo consulente precedente. Sì. E quel signore, quando chiedeva assicurazione su un investimento azionario. È quello che, sì, certo. Lui dice, insomma, se... No, io volevo dire un'altra cosa. I suoi consulenti si riferiscono sempre al rischio, alla propensione di rischio del cliente. Sì. Ma non parlano mai della propensione all'età. No, ma io credo che quello sia tutto, come dire, omnicomprensiva questa riflessione, Piero. Perché casualmente lei ci fa questa considerazione? Non mi metterò mai in testa di prendere un'azione o un'obbligazione che scada di qua a 20 anni. Certo. perché era solo questo. Sì, grazie Piero. No, io so che lui non ce l'ha voluto dire, però è un arzillo ottantenne, Piero, da quello che ho capito, perché le mie ragazze me lo hanno segnalato. Spero di non averlo messo in difficoltà, ma insomma la lucidità è assolutamente rispettabile questa persona. Ma io credo che sia un discorso scontato che i nostri interlocutori appunto avevano fatto quando si fa il ragionamento sulla propensione ad un determinato tipo di investimento di un cliente. È chiaro che l'età viene in maniera scontata considerata. Cioè, non voglio sentire lei, Magri, solo perché mi rimane un minuto di tempo, almeno Bulgarini per concludere devo sentirlo. Bulgarini, quale tema preferisce per la sua conclusione? No, sul mi piaceva completare il ragionamento sulle pensioni, perché è una materia che mi piace, molto, come ha detto lei. Allora, purtroppo in Italia abbiamo questo problema e dovremmo organizzarci per risolvercelo, perché nessun altro ce lo risolverà. Questo problema naturalmente si risolve soltanto accantonando del denaro. Ora, anche qui soltanto due piccole sottolineature. È molto evidente che tutte le organizzazioni che producono strumenti finanziari sollecitano l'investitore alla comprensione di questo problema, e cioè stai attento perché la pensione sarà il 50%, 30%, per cui devi accantonare denaro. Quindi molto bravi dal punto di vista della evidenziazione del problema, un po' meno bravi sulla soluzione proposta, nel senso che lo scopo è accumulare denaro. Attraverso quale strumento può fare la differenza? La quotidianità ci dice che una volta preso atto del problema, molti futuri pensionati che accantonano denaro per la loro pensione utilizzano strumenti clamorosamente inefficienti, clamorosamente costosi, che produrranno un risultato a volte inferiore a quello che farebbero se tenessero i soldi nel conto corrente. Questo era soltanto per così un po' per spronare queste un po' l'industria. Persone vanno accompagnate ovviamente nella scelta. È chiaro che ci si fida del consulente più vicino, quello che magari ci ha seguito da quando siamo piccoli, quello che seguiva il nostro papà, e chiaro che lì insomma ci fidiamo e non mai immaginiamo che la persona che ci segue voglia scipparci persino la pensione. Bulgarini, come facciamo a scegliere il consulente corretto per un discorso così importante nella nostra vita? I dati che sono oggi sono anche fuori tempo massimo, dicono così. Mi spiace. Grazie mille. Grazie Bulgarini. Allora io su questa domanda, che lascio in sospeso, magari rinvio un altro confronto con gli ospiti di questa mattina solamente sul tema della previdenza complementare, perché è troppo importante. Pronti. Per tutto il resto, domani Plus 24 del Sole 24 Ore, la copertina sul tagliando autunnale dei nostri investimenti. Grazie a Marco Loconti e Franco Bulgarini, a Giancarlo Magri per essere stati con noi. Noi torniamo lunedì naturalmente, e buon fine settimana a tutti. Salva Danaio.